Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. Il buongiorno vi viene anche da Riccardo Poli e Alessandro Balia, che sono in redazione con me a confezionare questa puntata, e da Mauro De Angeli, che è alla parte tecnica. Le coordinate per interagire con noi: 349-238-6666 per gli sms se avete domande, commenti o suggerimenti da condensare in pochi caratteri, oppure la mail nessunluogo@radio24.it e infine la pagina Facebook Nessun luogo è lontano. E dunque, per raccontarvi la storia di oggi, vi porto a Delhi, in India. Chaos on the streets of New Delhi as supporters of Anna Hazare shout anti-government statements. And despite his detention, he's urged his supporters in this pre-recorded message to continue with their struggle. Our second fight for freedom has begun. They have arrested me, but with my arrest, can they stop our movement? Never. Please don't let this happen. Una nuova lotta per la libertà. La voce che avete sentito è quella di Anna Hazare, un 74enne che sta mobilitando l'intero paese contro una corruzione dilagante. Siamo in India, siamo a Nuova Delhi. Anna Hazare è in carcere, nel carcere di Tihar, e si rifiuta di uscirne, uno dei tanti sottili paradossi della vicenda che vi raccontiamo quest'oggi. Hazare si richiama a Gandhi, invita alla protesta non violenta contro la corruzione, ma è favorevole alla pena di morte per chi si macchia di questo reato. Una contraddizione che ovviamente non è sfuggita ai suoi detrattori, soprattutto tra le fila di chi ha il governo in India. Dopo gli arresti di massa di ieri, 1400 persone fermate dalla polizia e l'arresto di Hazare, ora si attende un pronunciamento della Corte Suprema. Hazare chiede di poter iniziare il suo sciopero della fame di protesta pubblicamente e di poter coinvolgere quanta più gente possibile. La polizia, dal canto suo, sostiene che lo sciopero della fame debba avere un limite temporale e anche il numero di persone coinvolte debba essere limitato. Insomma, fa discutere soprattutto quell'arresto di massa preventivo. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo sentito Sona Khan, avvocato della Corte Suprema indiana. Law and order is a state subject in India, and in law and order, if you know that in times to come, in an hour or 2 hours or in a day or 2 days, there's going to be unrest, which will not. Ordine e legge in India sono inscindibili. Le autorità sono responsabili del mantenimento della calma e della pace, e per farlo possono prendere misure preventive, visto che nel giro di poche ore o di pochi giorni la situazione può diventare incontrollabile. La detenzione è una di quelle misure che si possono prendere da un punto di vista legale, ma se questa fosse una manifestazione pacifica, queste misure non sarebbero state prese. La storia insegna che anche movimenti più pacifici possono diventare violenti, possono diventare difficili da gestire. Non è detto che in questo caso la manifestazione scoppi in protesta violenta. È difficile determinare queste cose, sono questioni molto delicate. It's a very sensitive issue. E così, a scanso ed equivoci, 1400 persone sono state fermate dalla polizia. Una polizia che detta delle condizioni molto precise che i manifestanti non rispettano. Ascoltiamo ancora Sona Khan. They refused to do that, yes. They said that they did not want to respect the 6 conditions. For example, the fast would be limited to 3 days. Si rifiutano di farlo. Hanno detto di non voler rispettare le 6 condizioni. Per esempio, per quanto riguarda i limiti imposti per le dimostrazioni, non ci dovrebbero essere più di 5.000 persone e non dovrebbero avere più di 50 macchine e 50 motociclette. Non vogliono rispettare tutto questo, ma le attività delle città devono continuare. Le persone sono bloccate in casa e non possono andare da nessuna parte a causa di quello che sta succedendo nelle città. La gente è molto preoccupata. Contro la corruzione nel nome di Gandhi, questa è la storia di Anna Hazare, questo 74enne che sta mobilitando una folla in India. Cerchiamo di saperne di più grazie alla collega Maria Grazia Coggiola, che è a Nuova Delhi. Maria Grazia, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, tu, se non sbaglio, sei proprio di ritorno dal carcere di Tihar. Che situazione hai trovato lì davanti al carcere, sì, dove Hazare è ancora rinchiuso? Sì, stamattina sono stata con i manifestanti che tra l'altro sono ancora davanti al carcere di Tiar, che è il più grande carcere di Delhi e che è praticamente una vera e propria città. Si erano radunate circa 10.000 persone davanti a diversi ingressi. Le ultime notizie, le ultimissime, sono che questo negoziato che il governo sta facendo con Azari sembra abbia avuto qualche sviluppo. Il governo ha ceduto ulteriormente alcune condizioni, sembrerebbe che abbia sia d'accordo adesso a dargli 7 giorni digiuno. Ricordo che però la richiesta dell'attivista, di questo cocciuto attivista 74enne, quello di avere la possibilità di fare il suo sciopero della fame senza alcuna condizione. E siccome già da ieri si è visto il governo è sulla difensiva, perché davanti a lui non ha solo Anna Azari, un anziano attivista di 74 anni, ma ha veramente un movimento popolare dietro molto molto forte e fatto e trasversale, perché stamattina c'erano dagli ingegneri agli studenti alla gente della strada, degli handicappati, insomma veramente la società civile, sì, che dice basta, e questo effettivamente è una cosa che il governo preoccupa, quindi ecco che sta per cedere. Però la situazione attuale è che Azari si trova ancora in un ufficio del carcere, fuori dalla cella, di fatto è libero, ma lui non vuole uscire, almeno si rifiuta di andare fuori, perché appunto sta praticamente ricattando il governo. Ecco, per chi non si occupa di vicende indiane, per chi non conosce questo gigantesco paese, può suonare bizzarra, no? Anche questo braccio di ferro tra il governo e tra Azari sulla durata dello sciopero della fame di protesta. È una cosa, una dinamica forse tutta indiana in questo senso, Maria Grazia? Questo è una tattica anche dei gandhiani, fin dal Mahatma Gandhi, cioè quello di veramente lottare con la non violenza, perché stiamo parlando di una situazione in cui veramente nessuno è stato picchiato. Ieri ci sono stati degli arresti, certo, però non c'è stato violenza in questa protesta, è veramente una protesta pacifica. È la tattica veramente di ottenere... il fatto di essere liberi a protestare nelle modalità in cui si vuole. La sua decisione è quello di avere, appunto, di fare uno sciopero della fame. È chiaro che limitando la durata anche l'effetto dello sciopero della fame, perché lui ha dichiarato: io digiuno fino alla morte, questo è il suo intento, sì. Cioè veramente dietro un'intenzione forte di piegare il governo. È chiaro che se ci mette dei limiti, questa protesta diventa più debole, ecco perché lui insiste col fatto del digiuno a tempo indeterminato e anche con la massima esposizione e visibilità possibile, certo, la possibilità di avere il più largo pubblico possibile, è una tattica. Ecco, quanto il paragone con Gandhi, che lui stesso in qualche modo richiama anche abbastanza esplicitamente, è una trovata mediatica e di ottima comunicazione, e quanto invece ha delle basi secondo te in qualche modo solide su cui si poggia questo paragone? No, penso che sia abbastanza solida la cosa, anche se non penso che lo si possa definire per adesso un nuovo Gandhi. Però è vero che i valori che lui su cui si basa la sua ideologia e che diffonde sono i valori del Mahatma Gandhi, e che hanno veramente ancora presa in questo paese. Stamattina la gente mi diceva apertamente: questa è la nostra seconda lotta per l'indipendenza non dagli inglesi questa volta, ma dalla corruzione. Alcuni mi dicevano da un governo corrotto, altri dalla corruzione, da questo sistema che non ci piace più, che abbiamo sopportato per tantissimi anni e adesso ce ne vogliamo sbarazzare. E il fatto, alcuni mi dicevano, c'è un risveglio anche delle coscienze, è un movimento che in parte è basato appunto sull'esempio di Gandhi, perché siamo in India, ma è anche ispirato, e questo è stato bene, è stato detto anche apertamente stamattina, da quello successo, dai movimenti che abbiamo visto in Medio Oriente, in Egitto, in Tunisia, insomma. C'è sicuramente un'imitazione anche di questi movimenti, anche se l'India non è una dittatura, quindi non c'è un tiranno, insomma, da cacciare, sì. Però c'è un nemico comune che è appunto la corruzione, e in questi giorni anche questo fatto di limitare la libertà di un anziano come Azhari, visto come molto con una faccia pulita e onesto, quindi non senza macchia, diciamo, in più con questo suo essere gandhiano, sì. Quindi con questo suo ispirarsi al Mahatma, figura molto forte. Ecco, il fatto che il governo privasse della libertà di protestare a questa persona, ecco, qui c'è stato veramente una sorta di sdegno, no? E insomma, questo vento di rivoluzione che dal Maghreb si è poi in parte diffuso anche in Africa e poi nel Medio Oriente pare che inizi a spirare anche in India. Allora, grazie a Maria Grazia Coggiola, buona giornata e buon lavoro. Grazie. E secondo il quotidiano Times of India, che come tutti i media indiani dedica ampio spazio alla vicenda, la figura di Azhari è uno dei pochi attivisti che abbia attirato l'attenzione degli indiani di mezzo mondo. Allora cerchiamo di capire meglio chi è Azhari, grazie ancora a Sona Khan. He is a social activist. He used to be in the Indian Army. There was some problem and I think he left Indian Army. Then he started a movement for the availability. Azhari è un attivista nel campo sociale che faceva parte dell'esercito indiano, con cui ha avuto qualche problema visto che l'ha lasciato. Ha fondato un movimento per assicurare la disponibilità dell'acqua nei villaggi e per altre battaglie sociali. Come attivista è una persona che ha fatto davvero un buon lavoro. Negli ultimi 4 o 5, forse 6 anni, la sua battaglia principale è stata quella per l'educazione. C'è un'altra opinione che gira su di lui, che appartenga all'opposizione del governo indiano, tanto che alcune iniziative portate avanti dal suo movimento hanno reso la vita del Parlamento davvero difficile. Lui e i suoi alleati hanno degli ideali su cui non si può dire se siano corretti o meno, ma questo è ciò in cui credono. But this is an opinion doing the rounds. Questo è il ritratto che Sona Khan, avvocato della Corte Suprema indiana, fa di Azhari. Ma che personaggio è? Chi è Anna Azhari? È davvero il nuovo Gandhi? Buongiorno al professor Michel Guglielmo Torri, professore di storia dell'India moderna e contemporanea all'Università di Torino e responsabile scientifico di Asia Major, che è un osservatorio italiano sull'Asia. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Professore, ci aiuti a completare un po' meglio il ritratto di questa strana figura che in qualche modo irrompe nella scena politica indiana. È davvero un nuovo Gandhi? Ma questo è difficile da dire. Quello che è chiaro è che si tratta di una persona di straordinarie capacità organizzative. Quando si fa riferimento al fatto che Azhari fa ricorso allo sciopero della fame, si dà per scontata una cosa che non è molto scontata, e la cosa che non è scontata è che uno sciopero della fame, per avere successo e per diventare una cosa così importante a livello nazionale, è tale perché è fatto da una persona che gode già di un notevolissimo prestigio. Ora, questo notevolissimo prestigio, perché Azhari effettivamente ha un notevolissimo prestigio, è stato costruito nel corso degli anni attraverso una serie di azioni che sono state condotte fino a non molti anni fa, fino a una decina di anni fa direi, soprattutto nello stato natale di Azhari, il Maharashtra, che peraltro è uno degli stati più importanti dell'Unione Indiana e il cui capoluogo è la capitale economica dell'India, cioè Mumbai o Bombay come si chiamava una volta. Azhari ha condotto tutta una serie di campagne contro la corruzione, ma prima di condurre queste campagne contro la corruzione Azhari è stata una persona che ha condotto come dire, una serie di attività di base volte a migliorare la vita dei contadini. Azare, si è detto fra parentesi, è di un'estrazione sociale estremamente utile, umile, mi scusi, figlio di contadini senza terra, che appunto per 15 anni è stato nell'esercito indiano, poi ha abbandonato l'esercito indiano, è tornato al suo villaggio natale e è riuscito a mettere in opera tutta una serie di attività volte a migliorare la situazione economica del suo villaggio e dei villaggi vicini. Nessun luogo è lontano. In India, contro la corruzione nel nome di Gandhi, stiamo cercando di tratteggiare la figura di Azhari, che è questo attivista, ci aiutava il professor Torri, professore di storia dell'India moderna all'Università di Torino, nel tratteggiare questa figura di umili origini che, grazie a un contatto con la popolazione, col territorio, insomma, si è guadagnato una rispettabilità, una fama di duro e puro, e combatte insomma contro la corruzione. Ed è un abile catalizzatore e un abile comunicatore, catalizzatore anche della fascia della popolazione borghese. Ascoltiamo ancora Sona Khan, avvocato della Corte Suprema indiana, come descrive questo cruciale punto. Well, it's a kind of a movement at the moment where people are participating in it, because they think by participating possibly the corruption would be eradicated. Corruption is a big issue in India at the moment. Quello che si sta verificando adesso è una specie di movimento a cui la gente prende parte, e grazie a questa iniziativa la corruzione potrebbe essere sradicata. La corruzione è il maggior problema in India al momento, una piaga che infetta la vita in ogni essere umano. La gente si sta unendo a Anna Hazare, che sta conquistando una leadership. Lo sostengono perché in questo momento hanno bisogno del supporto di nuove persone per combattere contro la corruzione che serpeggia tra i politici, i membri del Parlamento e il primo ministro. Gli appartenenti alla borghesia si lamentano della situazione con la polizia e gli uffici governativi. Pensano che grazie al supporto di nuovi personaggi la corruzione possa essere spazzata via. For registration of the complaint or going to any government office, they are expected to pay bribes, and this is what they think. By having the super ambush person, probably the corruption will be eradicated. Allora, professor Torri, quanto la corruzione è un problema in India? Quanto grave è questo problema? Ma la corruzione è sempre stata endemica, è sempre stata abbastanza grave, ma quello che è successo è stato che negli ultimi mesi dello scorso anno all'improvviso sono emersi alcuni scandali colossali, una serie di scandali, di fenomeni di corruzione veramente formidabili. Uno, ad esempio, è legato alle spese fatte per i giochi del Commonwealth a Delhi, un altro che è ancora più grande dal punto di vista del denaro coinvolto è lo scandalo legato alla vendita sotto costo delle bande elettromagnetiche per i cellulari. Questo in particolare è stato uno scandalo che ha coinvolto un giro di denaro assolutamente colossale. Questi scandali, uniti a una serie di altri scandali minori che sono emersi tutti negli ultimi mesi dello scorso anno, hanno avuto un contraccolpo violento a livello politico sulla situazione in India, anche perché per la prima volta si è incominciato ad avere dubbi sullo stesso primo ministro, Manmohan Singh. Cioè, Manmohan Singh era sempre apparso come una persona assolutamente onesta, assolutamente al di sopra di qualsiasi fenomeno di corruzione, di qualsiasi coinvolgimento nella corruzione. Quindi, professore, lei dice in qualche modo questo sistema indiano sta mostrando qualche crepa, che Azhari è molto bravo anche a cavalcare, insomma, a denunciare e su cui punta il dito. Fra l'altro, dal punto di vista politico, sia i partiti di opposizione che quelli governativi, insomma, lo trattano quasi con i guanti, ben consapevoli, no, del peso che può avere. Quanto la corruzione in India è legata poi a un altissimo tasso di crescita dell'economia? Io non sono del tutto convinto che sia legato al fenomeno della crescita dell'economia, ritengo che sia legato a un altro fenomeno, cioè l'India è un paese dove non c'è il finanziamento pubblico ai partiti e dove fino alla fine degli anni 60 però era possibile, soprattutto per le grandi compagnie, fare donazioni ai partiti. Queste donazioni avvenivano alla luce del sole. Ora, non ricordo esattamente se alla fine degli anni 60 o all'inizio degli anni 70, Indira Gandhi, allora al potere, proibì anche questa possibilità, cioè divenne impossibile fare legalmente delle donazioni ai partiti, che peraltro non avevano un finanziamento pubblico. Ora, quello che di fatto successe fu che i grandi gruppi economici continuarono a fare donazioni ai partiti, o per meglio dire furono costretti a continuare a fare donazioni al partito dominante o ai partiti al potere. Così nel corso degli anni, nel corso degli anni 70 e dagli anni 70 in avanti, si è creato una fittissima rete di corruzione e di collusione. Nel senso che appunto c'è questo rapporto illegale fra i partiti al potere e i grandi gruppi economici. Questo è all'origine della corruzione in India. Io non credo che questa situazione sia risolvibile se non si cambiano le cause fondamentali del fenomeno. Le cause fondamentali del fenomeno, lo ripeto, sono legate al fatto che non c'è una modalità legale di finanziare i partiti in India. È stato chiarissimo. Professore, in sintesi, in chiusura, primavera indiana o è uno slogan mediatico? Io direi che in parte è uno slogan mediatico, ma sottolineerei anche un fatto importante che non è stato ricordato, che una delle ragioni del diffondersi di questo movimento condotto da Azhare è il fatto che la situazione economica è sì positiva, ma è caratterizzata dal fatto che ormai da mesi c'è un altissimo tasso di inflazione che sta diventando sempre più alto e che il governo non è in grado di controllare. Questa è una situazione che sta avendo dei contraccolpi sul livello di vita della classe media e delle masse, e questa è sicuramente una delle ragioni per cui il movimento condotto da Azhare in questo momento ha il seguito ampio che sta avendo. E l'appeal sulla classe media che abbiamo bene messo in luce grazie anche al suo contributo. Grazie quindi professor Torri per il suo contributo, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille. E allora cambiamo decisamente pagina perché andiamo in Darfur. Siamo in Darfur, dove i riflettori dei media raramente si accendono, stavolta si sono accesi perché sono queste ore decisive per la sorte dell'italiano Francesco Azhara, un operatore di emergency rapito domenica scorsa a Niala, in Sud Darfur. Il governatore del Sud Darfur, Abdul Karim Moussa, ha rassicurato sullo stato di salute dell'italiano. Staremo a vedere, sono appunto, pare, ore decisive per il suo, ci auspichiamo, rilascio. Antonella Napoli, presidente di Italians for Darfur, è giornalista. Antonella, buongiorno. Buongiorno, allora, ben ritrovata. Antonella, a te chiederei il quadro in cui è avvenuto questo rapimento. Dicevo prima, insomma, sul Darfur non se ne parla mai abbastanza, è una delle tante crisi dimenticate. Cerchiamo un attimo sinteticamente di fare una fotografia di questa tormentata regione. Sì, purtroppo questo è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi che mettono in evidenza quanto la situazione in Darfur sia più grave che mai, altro che pacificata, come si è tentato di dire, di far passare come messaggio negli ultimi mesi. Tra l'altro questo è un sequestro piuttosto anomalo. Io ovviamente non mi addentrerò per rispetto proprio della delicatezza del momento, anche perché sono molto amica di Gino Strada, di tutti i ragazzi di Emergency, quindi rispetto molto questo momento, ma l'area dove è avvenuto questo rapimento è un'area che è sotto il controllo governativo. Effettivamente ci sono grossi problemi di sicurezza perché c'è banditismo, ci sono bande criminali per lo più composte da miliziani usciti dalle famose milizie dei Janjaweed che per anni hanno combattuto contro la ribellione del Darfur. I diavoli a cavallo, come venivano battezzati. Una situazione, questi miliziani per anni sono stati inquadrati, anche se non ufficialmente, tra le forze militari sudanesi. Lo certifica in qualche modo la Corte Penale Internazionale, che ha indagato Bashir per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, affermando che utilizzava queste milizie per contrastare la ribellione in Darfur. Come dicevo, è l'ultimo episodio di tanti altri atti criminali, come l'attacco a un convoglio UNAMID, che è la missione di peacekeeping che è dispiegata in Darfur, e anche una serie di raid e attacchi in villaggi a cui è rivolta l'attenzione delle forze militari sudanesi, perché ci sono postazioni ribelli che sono nate nei dintorni di queste aree. Hai citato le formazioni ribelli, che ovviamente non mancano in Darfur. Le principali sono il GEM, direi, no? Che è forse quella più meglio armata. Questo di sicuro, perché il Justice and Equality Movement ha anche sferrato qualche anno fa un attacco proprio a ridosso della capitale con oltre 300 militari e ha anche ottenuto un successo abbastanza riconosciuto dalla stessa Khartoum, e sicuramente al momento il gruppo che rappresenta meglio la ribellione del Darfur. E c'è anche il Sudan Liberation Movement, che tra l'altro dopo la rottura dell'accordo di pace del 2006 di Abuja, che aveva segnato proprio la spaccatura tra... Vediamo se riusciamo a richiamare Antonella Napoli. Intanto però c'è il traffico, allora informazioni sulla viabilità, poi di nuovo Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo è lontano. Ancora una buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano. La seconda pagina della puntata di oggi era dedicata al Darfur, perché stavamo cercando di capire in che contesto è avvenuto il sequestro del cooperante italiano, di Francesco Azzarà. Sequestro che noi tutti chiaramente auspichiamo si risolverà nel migliore dei modi, ma che si inserisce in una situazione piuttosto delicata, e una situazione in cui, come dire, c'è una grande fluidità. Ci sono gruppi ribelli, si citava il GEM, Justice Equality Movement, che è il gruppo più armato che scorrazza nel deserto del Darfur. Poi c'è l'SLA, il Sudan Liberation Army, che è il braccio armato del Sudan Liberation Movement, che sono questi due gruppi armati che sono contrapposti al potere di Khartoum. Cercheremo di capire meglio nei prossimi giorni quale sarà l'evoluzione, non soltanto appunto le sorti del nostro connazionale, ma anche del Darfur e di questa regione tormentata, su cui, lo dicevo all'inizio, insomma, troppo poco si accendono i riflettori. Ma adesso cambiamo decisamente pagina e andiamo in Ucraina. Ucraina, dove prosegue il braccio di ferro tra il tribunale che la sta giudicando e Giulia Timoshenko, questo braccio di ferro che ha sempre più il sapore di un braccio di ferro politico e sempre meno giudiziario. La Timoshenko le sta provando un po' tutte, l'eroina della rivoluzione arancione, è stata appoggiata da femministe a seno nudo nei giorni scorsi, da sostenitori che proprio ieri di fronte al tribunale si sono scontrati, tra virgolette, a suon di cori e slogan, con chi invece sosteneva l'operato del governo e del tribunale. La stessa Timoshenko ha detto: temo di essere uccisa in carcere. E allora cerchiamo di capirne un po' di più grazie a Francesco Canatà, direttore di Quadrante Europa. Francesco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Francesco, allora, è una, come dire, una querela giudiziaria o, come dire, c'è un braccio di ferro politico in atto molto forte? Beh, insomma, è una querela giudiziaria, per quanto se il tribunale riuscisse a provare che Timoshenko ha agito non comunicando il prezzo del gas, come afferma Yushchenko, come oggi Yushchenko ha affermato davanti al tribunale, che Timoshenko avrebbe sottoscritto l'accordo con la Russia, avendone pure le competenze, che erano quelle su competenze del primo ministro, ma non comunicando né al Parlamento né al presidente ucraino il prezzo del gas. Ma quello che risalta oggi dalle dichiarazioni di Yushchenko sono due cose. Innanzitutto lui ha detto sia in tribunale che dopo davanti ai giornalisti che il contratto del 2009 non è assolutamente giustificabile dal punto di vista economico. Secondo, poi ha detto che l'Ucraina si dovrebbe, come dire, preparare ad annullare gli accordi del gas del 2009. Ma questo fa risaltare non solo, come dire, lo scontro tra l'ex primo ministro della rivoluzione arancione e il governo attuale dell'Ucraina, ma anche quello interno tra l'ex presidente ucraino e il suo primo ministro. Perché Yushchenko ha tenuto anche a precisare di non aver fatto parte, di non far parte di quella società di intermediazione che Timoshenko ha voluto togliere dagli accordi di intermediazione russo-ucraina, che Timoshenko ha voluto cancellare nel 2009. Sì. In realtà si potrebbe dire che, insomma, che Timoshenko ha toccato il nervo scoperto di Yushchenko, perché quella società di intermediazione era anche una società che forniva sotto banco denaro, finanziamenti, sia Yushchenko che l'attuale presidente Yanukovych. Un'altra cosa da sottolineare è che nonostante il rumore che fanno, i simpatizzanti di Timoshenko non riescono a mobilitare la piazza. Per questo è probabile che si spingeranno a chiedere maggior sostegno internazionale, sia da parte dell'Unione Europea che da parte degli Stati Uniti. Un'altra cosa pure che risalta è che la Polonia ha invitato Timoshenko al forum economico che si terrà ai primi di settembre, e che questo qui ha scatenato reazione da parte del governo, dicendo che non saranno tollerabili interferenze dall'esterno. Questo a grandi linee è quello che è successo ultimamente, nelle ultime ore, e su questo, insomma, ci sarà da dibattere un pochettino in seguito. Ecco, fra l'altro, insomma, situazione è abbastanza complessa, perché come dire, si innesta su un fatto che sono questi contratti sul gas sottoscritti appunto con la Russia nel 2009, cui facevi riferimento. L'accusa è di abuso d'ufficio, se non mi sbaglio. E però rischia fino a 10 anni di carcere, che insomma non è poco per l'ex eroina della rivoluzione. Sì, l'accusa rischia 10 anni di carcere perché viene accusata di aver danneggiato gli interessi economici, la sicurezza energetica dell'Ucraina. Devo dire che oggi c'è stata anche una dichiarazione dell'ex rappresentante della Commissione per la sicurezza energetica del paese, Bogdan Sokoslovsky, che lui dice invece che la Timoshenko aveva tutte le competenze per aver direttamente mandato al capo di Naftogaz di attuare l'accordo con i russi, ossia secondo lui non vi sarebbe nessuna violazione del fatto che la Timoshenko non abbia informato tempestivamente il Parlamento e il Presidente. Yushchenko ha invitato il tribunale a interrogare Putin e Miller. Piero Miller è il responsabile di Gazprom, sì, per capire meglio tutte le circostanze in cui sono venuti gli accordi. La procura ucraina ha detto che non farà mai un passo di questo tipo, ma questo sta a dimostrare anche la delicatezza internazionale della questione, insomma, con la Russia che sorprendentemente si schiera a difesa dell'ex leader della rivoluzione arancione. Questo anche a capire la complessità della situazione internazionale e la complessità della situazione interna ucraina in questo caso. Sì, che insomma a leggere in questo modo suona quasi come un paradosso. Dunque, hai citato Gazprom, che è il colosso russo con cui è stato fatto l'accordo, mentre la società ucraina era la Naftogaz, che è la società statale energetica. Fino al 2009 tra queste due società energetiche vi era questo Ross-Ukrenergo, che invece è una società di intermediazione che Timoshenko si è, come dire, affrettata a cancellare dagli accordi, e questo può aver, come dire, creato questa strana alleanza tra Yushchenko e l'attuale presidente Yanukovych. Ecco, l'inusitata alleanza russo-ucraina, però quanto la Timoshenko ha presa sulla popolazione? Le immagini che ci arrivano da Kiev davanti al tribunale sono di come dire, di opposte fazioni, no? che si sfidano con cartelli, con manifesti pro e contro la bella Giulia. Ma secondo te la popolazione, cioè, vuol dire, il fatto che questo processo sta diventando un evento mediatico eccezionale per l'Ucraina e non solo, in qualche modo riaccalorerà gli animi? Ci saranno nuovi schieramenti? Beh, lunedì scorso il partito della Timoshenko si aspettava, cioè puntava a portare in piazza 10.000 persone. Tutto questo non è successo. È possibile che l'estate, insomma, è possibile che in questo momento la mobilitazione di piazza sia un pochino, come dire, lacunosa da parte dei sostenitori di Timoshenko. Certo, quello che potrà avvenire nel caso in cui lei continuasse a stare in carcere è imprevedibile. L'Ucraina è un paese imprevedibile, c'è un'effervescenza politica che, come dire, nota a tutti, sì. E ecco, questo è quanto ci si può aspettare. Al momento io ritengo che molto molto potranno fare le organizzazioni internazionali. Devo dire che la stampa tedesca oggi mette in risalto la difficoltà di portare avanti accordi di partenariato con Kiev nel momento in cui l'ex primo ministro del paese sta in carcere. D'altra parte lasciare che l'Ucraina ritorni nella braccia della Russia sarà un qualche cosa che l'Unione Europea vede di molto con molto malumore, ecco. E certo, quindi occhi puntati, insomma, sull'Ucraina, che nello scacchiere dell'est, a cavallo tra Asia e Europa, insomma, è sicuramente una pedina fondamentale. In chiusura, Francesco, secondo te questa dichiarazione, che poi è datata 15 agosto e Ferragosto, di questo timore di essere ucciso in carcere, è, come dire, una volontà di attirare l'attenzione dei media o giocarsi tutte le cartucce possibili? Abbiamo detto, no, ha convocato la famiglia, insomma, le sta provando un po' tutte, un po' per toccare le corde anche sentimentali, emotive dei giudici e un po' forse anche quelle del pubblico. C'è veramente questo rischio dell'uccisione in carcere? Ma l'uccisione in carcere credo che non sia una cosa inimmaginabile. Devo dire che lei in un primo momento, nei giorni scorsi, aveva parlato che non si sarebbe mai suicidata in carcere, facendo riferimento a quei politici, a quelle sì. persone che in carcere, che arrestate per motivi politici, poi sono effettivamente morte in carcere. Che la Timoshenko venga uccisa in carcere dovrebbe essere, cioè, ricordo un po' più un episodio di fantapolitica che la realtà. Però nulla si può escludere, insomma, in Ucraina sono successe cose molto molto particolari, anche ultimamente molte persone hanno perso la vita proprio dopo periodi detentivi, ma insomma, ecco, io non credo che tutto questo possa essere qualcosa che veramente, cioè, farebbe scoppiare la rivoluzione in Ucraina, perché a quel punto si salderebbe veramente la protesta popolare con la protesta, con le osservazioni internazionali, con la protesta internazionale. Sì, dice, a quel punto la situazione sarebbe così esplosiva. Nemmeno a chi dovrebbe uccidere Timoshenko converrebbe una Timoshenko morta. Timoshenko in questo momento c'è un rating in discesa, la popolazione non riesce a mobilitarsi, insomma, tutto gioca a favore di Yanukovych, e tutto gioca a favore del fatto che Timoshenko non possa tornare ad essere un avversario importante per l'attuale presidente, sia nelle legislative del prossimo anno, sia nelle presidenziali del 2015. E tutto questo debba passare attraverso una condanna penale, ecco, no, questo non depone a favore degli standard democratici dell'Ucraina, che dopo la rivoluzione arancione erano saliti di livello, sì. È stato dimostrato anche con la regolarità delle elezioni, delle ultime elezioni presidenziali, che hanno visto Yanukovych vincere la battaglia, appunto, con Timoshenko. Sì, e questo braccio di ferro, insomma, sembra leggermente far tornare indietro quella che era la più rosea situazione in Ucraina. Grazie a Francesco Cannatà per questo tuo commento. Grazie, buona giornata. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. E nel WhatsApp di oggi vi porto in Africa, dove sono un paio di notizie che voglio segnalarvi. La prima: la comunità dell'Africa orientale, l'EAC, ha dichiarato tolleranza zero contro il traffico di esseri umani e di stupefacenti. Il vice segretario generale Beatrice Kirazo ha annunciato il prossimo lancio di un'azione di contrasto congiunta da parte di tutti gli stati aderenti all'organismo, una serie di norme più stringenti contro questi crimini, e gli stati coinvolti sono Tanzania, Uganda, Kenya, Ruanda e Burundi. E sempre in Africa, dove un recente studio della Banca Africana per lo Sviluppo ha battezzato Ghana ed Etiopia come nuovi leoni africani tra le economie emergenti mondiali. Le previsioni della crescita del prodotto interno lordo fatte appunto dalla Banca Africana per lo Sviluppo stimano che il Ghana crescerà del 12%, pensate, e l'Etiopia poco più del 10%. Il Ghana ha visto raddoppiare il suo PIL, che è passato dal 5,9% del 2010 al più 12 del 2011 grazie alla produzione di petrolio iniziata nel dicembre del 2010. Secondo le stime della Banca Mondiale, la crescita dovrebbe essere ancora più ottimistica l'anno prossimo, più 13,4%. Accra, capitale del Ghana, è il secondo produttore di oro del continente dopo il Sudafrica, mentre l'Etiopia è il primo produttore di caffè del continente. Insomma, cifre a numeri a due cifre ben lontani invece dalla crisi in cui versa il vecchio continente. A questo punto i titoli di coda. Quindi un grazie a voi, gentili ascoltatori, per essere rimasti all'ascolto. Un grazie da parte di Riccardo Poli e Alessandro Balia, che sono con me in redazione, e Mauro De Angeli, che era alla parte tecnica. Un saluto da Giampaolo Musumeci. Noi ci risentiamo domani 13:15, ma ricordate, nessun luogo è lontano.